notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Si ricomincia, care ascoltatrici, cari ascoltatori, si ricomincia la settimana, finisce la giornata, quindi ricomincio a raccontarvi quello che è successo, si ricomincia a discutere naturalmente di legge elettorale, anzi non si è smesso praticamente dalle scorse settimane, da sabato scorso, da quando insomma ci siamo lasciati, e Renzi dà il suo ultimatum, dice qui se non si arriva a quagliare la legislatura finisce, anche se è notizia di poco fa che ci sarebbe un'intesa sul premio di maggioranza con Forza Italia che dice sì alla soglia del 38%. Sapete che fino a qualche ora fa la soglia era quella del 35%, bisognerebbe arrivare al 35% dei voti per avere il premio di maggioranza del 18%, adesso invece si è un po' alzata di 3 punti al 38%, insomma piccoli ritocchini come possiamo definirli. Intanto, mentre si discute ininterrottamente della legge elettorale, c'è un'indagine della Banca d'Italia che dice che in Italia i ricchi sono sempre più ricchi, il 10% delle famiglie detiene il 46% della ricchezza del paese, capite bene poi soprattutto così in un momento di crisi che cosa significhi, insomma la forbice come si dice si allarga sempre di più tra poveri e ricchi. Della legge elettorale, pensate che sia un argomento sopravvalutato, se ne parla fin troppo oppure è davvero così importante per il paese come ci dice Renzi, come dicono i politici da un po' di tempo, insomma si sono risvegliati su questo argomento. C'è sempre la pagina Facebook per voi, per i vostri commenti, effetto notte trattino Roberta Giordano, anche per capire se così sono importanti per voi le preferenze, per esempio sulle quali si continua a discutere. Poi c'è anche il numero per i messaggi 349 238 6666. Ci sono altri temi sulla pagina di Effetto Notte, poi potete andarla a guardare. Intanto vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. Naturalmente la legge elettorale, come vi dicevo, presentati 318 emendamenti, Letta assicura se va in porto sono il più felice. Ricchezza e povertà, secondo il rapporto di Banca Italia, la metà delle famiglie italiane vive con meno di 2.000 euro al mese. La giornata della memoria, oggi l'ira di Napolitano contro gli atti di antisemitismo, miserabile, dice la provocazione anti-ebrei. Casa all'insaputa, non è reato, l'ex ministro Scajola assolto per la casa con vista sul Colosseo. E poi procreazione assistita, la legge 40 torna davanti alla Consulta. E partiamo quindi dalla politica, tanto per cambiare, più precisamente appunto dalla riforma della legge elettorale, con l'apertura del presidente del Consiglio Letta Renzi. La riforma della legge elettorale è un bene, dice, per il paese, così ha precisato il presidente del Consiglio nel giorno della scadenza appunto della presentazione degli emendamenti al testo dell'Italico. 318 emendamenti, un po' troppi per Matteo Renzi, questo è il numero delle modifiche presentate dalle forze politiche alla legge elettorale in discussione alla Camera, 36 emendamenti sono solo quelli del PD, il segretario avverte. Non è pensabile che per uno 0,5% salti un accordo, che è un accordo in questo caso atteso non più da 8 anni, ma da 30 anni. Emendamenti, certo, tutto ciò che è utile sarà realizzato, ma con la saggezza che deriva dal fatto che gli italiani sanno perfettamente che siamo a un bivio straordinario. Da parte di Forza Italia si torna a blindare l'accordo del Nazareno, non secco le preferenze, soglia di sbarramento al 5%, definizione dei collegi elettorali da parte del Parlamento e non del Governo. Il Movimento 5 Stelle presenta invece emendamenti per un sistema proporzionale con preferenze e senza doppio turno. La Lega chiede che il Senato venga stralciato dalla riforma elettorale, il nuovo centrodestra vuole il ripristino del le preferenze. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il 2014 come anno di svolta, secondo il presidente del Consiglio Letta. Il premier lo ribadisce a Villa Madama al termine del vertice Italia-Spagna. I dati, spiega Letta, confermano che è ripresa la crescita. Questo è sicuramente per noi un elemento importante ed è un elemento che vogliamo consegnare all'intera Unione Europea, perché riteniamo che la legislatura che si apre dopo le elezioni europee di maggio possa essere la legislatura della crescita. L'anno è iniziato sia per l'Italia che per la Spagna senza la tempesta finanziaria addosso, aggiunge il Presidente del Consiglio, che mette poi nero su bianco gli obiettivi per il prodotto interno lordo. 1% quest'anno più 2% nel 2015, anche grazie all'Expo di Milano. Quanto alle priorità del vecchio continente fa capire Letta, in cima ci sono lotta alla disoccupazione giovanile ed unione bancaria. Altro capitolo, la tenuta del governo. Il Premier assume l'interim alla agricoltura dopo le dimissioni della De Girolamo, poi ribadisce l'Italia sarà più forte con una nuova legge elettorale. Il più felice se si raggiunge un risultato il più rapidamente possibile, sono io e il governo. Lavoro per aiutare un buon accordo e una rapida applicazione di queste riforme, conclude il Presidente del Consiglio. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto, come vi dicevo, ci sono continue conferme delle pesanti conseguenze della crisi. Oggi sono arrivati i dati del rapporto Banca Italia sulle famiglie. La ricerca di Palazzo Koch certifica numeri che sono una realtà per molte famiglie e che, potremmo scommetterci, sarà anche peggiorata. La crisi si è accanita sulle famiglie. Tra il 2010 e il 2012 il reddito nominale è calato di oltre 7 punti percentuali, la ricchezza di poco meno. La povertà pseudo-assoluta, cioè poco al di sopra della soglia minima, è salita dal 14% del 2010 al 16% del 2012. Dettaglio non irrilevante, un povero su tre è immigrato. Questo quadro si inscrive in altri più complessi e più impressionanti, come i dati relativi alla disuguaglianza sociale, che continua a crescere. Il 10% delle famiglie più ricche possiede quasi la metà della ricchezza totale di tutte le famiglie italiane. Da Banca Italia spiegano che l'aumento nella disuguaglianza della ricchezza è in parte attribuibile al calo del valore delle abitazioni, che è stato maggiore per le famiglie meno agiate, che di certo non vivono in appartamenti di lusso. Non solo, vivono anche, ma questa non è altro che una conferma, con i conti che non devono sforare mai. La metà delle famiglie ha a disposizione meno di 2.000 euro al mese. Il 20% può fare affidamento su un reddito addirittura inferiore, 1.200 euro al mese. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E aprendo i lavori del Consiglio Permanente della CE, il Cardinal Bagnasco ha lanciato un appello, dice: la povertà è reale, la voce dei senza lavoro che sale da ogni parte del paese, trovi risposte più efficaci in ogni ambito di responsabilità. E segno della crisi intanto anche il dato che riguarda il calo dell'immigrazione, meno 9,1% nel 2012, questo significa, poi ne parleremo, che probabilmente arriva anche meno gente, meno persone da fuori, dall'estero, perché c'è poco lavoro. In aumento invece chi esce dal paese, chi esce dall'Italia. E c'è un'ipotesi inquietante che riguarda il futuro dei 4 stabilimenti Electrolux in Italia. Si deciderà ad aprile. Intanto il gruppo, secondo fonti sindacali, ha presentato una proposta con un drastico taglio dei salari che porterebbe gli stipendi, oggi calcolati in 1.400 euro al mese, a circa 700-800 euro al mese. E oggi è anche il giorno della memoria, oggi 27 gennaio, c'è stata la condanna da parte del capo dello Stato degli atti di antisemitismo. Nel giorno della memoria Giorgio Napolitano invita ad intervenire contro ogni forma di antisemitismo e ad utilizzare le armi della cultura e dell'istruzione per opporsi al negazionismo, ma dal Quirinale il Presidente della Repubblica esprime anche la sua ferma condanna per i recenti atti antisemiti contro la comunità ebraica di Roma. Per il capo dello Stato quelle teste di maiale mozzate spedite tra l'altro alla sinagoga e all'ambasciata di Israele sono soltanto una miserabile provocazione. Gli autori, che spero possano essere rapidamente individuati, di un insulto assimilabile solo alla stessa repugnante materia usata in quei pacchi, non hanno nulla a che vedere con la Roma e i romani, che per sentimento umano e civile sono fraternamente accanto agli uomini e alle donne di origine e religione ebraica. Proprio a Roma, intanto, la notte scorsa, due estremisti di destra di 33 e 47 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di alcune delle scritte antisemite apparse nei giorni scorsi in diverse zone della capitale. I due sono stati denunciati per istigazione all'odio razziale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso dell'ex ministro Scajola, vi ricordate, della casa a sua insaputa? Bene, è stato assolto per l'acquisto di quella casa al Colosseo. Il fatto non sussiste e quindi è stato assolto. Con questa sentenza viene scagionato l'ex ministro Claudio Scajola per l'acquisto di una casa con vista sul Colosseo a Roma, pagata in parte da lui e in parte da altri, a sua insaputa, come disse lo stesso Scajola. La vicenda lo aveva costretto a lasciare il Ministero dell'Interno nel 2010. Scajola era accusato di finanziamento illecito in relazione all'acquisto dell'appartamento in via del Fagutale, a due passi dall'anfiteatro Flavio. Il PM aveva chiesto una condanna a 3 anni di carcere e il pagamento di una multa di 2 milioni di euro. L'ex esponente di Forza Italia si era difeso sostenendo di non sapere e di non ricordare i particolari di quell'acquisto, ma era stato rinviato a giudizio nel dicembre 2011. Nel processo, tra gli imputati c'era anche Diego Anemone, che secondo l'accusa avrebbe pagato parte della somma versata dall'ex ministro dell'Interno per l'acquisto, 1.100.000 euro su 1.700.000. Anche per lui il PM aveva chiesto una condanna a 3 anni, ma Anemone è stato prosciolto perché il reato è estinto per prescrizione. Lo stesso Anemone avrebbe contribuito con 100.000 euro alla ristrutturazione dell'immobile di Scajola. Paolo Panceri, Radio 24, il Sole 24 Ore. E spostiamoci all'estero adesso. In Nigeria almeno 22 cristiani sono stati massacrati dai terroristi islamici di Boko Haram, riferiscono così testimoni citati da diversi media durante questo la messa domenicale in un villaggio dello stato nord-orientale di Borno, lo stesso dove è stato poi compiuto un ulteriore eccidio in un mercato. Il totale di questi due attacchi, secondo la BBC, è di 72 morti. E c'è un nuovo vertice a Kiev, alla vigilia del vertice dell'Unione Europea, Russia, tra Unione Europea e Russia di domani. Il Consiglio d'Europa ha bocciato le norme restrittive varate da Kiev sulla magistratura e la libertà di manifestare il 16 gennaio scorso. L'ex premier Yulia Tymoshenko ha inviato dal carcere i leader dell'opposizione a non accettare le condizioni umilianti proposte dal governo Yanukovych per mettere fine alla crisi. E sempre in Marò sono abbastanza in primo piano, nel senso che ogni tanto risalta fuori la vicenda quando i media indiani minacciano la pena capitale. Siamo soldati, soldati italiani, dobbiamo soffrire con dignità. Questo hanno detto i due Marò trattenuti in India alla delegazione di parlamentari italiani arrivata a New Delhi per incontrarli nell'ambasciata italiana. Per Cicchito del nuovo centrodestra la pena di morte sarebbe un attacco all'Italia. Sentiamolo allora intervistato da Katia Caramelli. Grande lucidità e grande determinazione. Il tutto si svolge all'ambasciata italiana con un ambasciatore esperto che sta lavorando al meglio in una condizione difficile, pregiudicata anche da una catena di errori fatti dall'Italia nel passato, ma su questo torneremo dopo, quando la vicenda mi auguro che sia conclusa positivamente. Un'operazione che serve a far sentire agli indiani la profondità degli errori che hanno commesso, insomma, ecco. E di tanto in tanto torna la ribalta, la legge sulla procreazione assistita, nuovo dubbio di legittimità costituzionale sulla legge 40 che appunto regola la fecondazione assistita. Viola il principio di uguaglianza, di diritto alla salute, per questo la legge 40 torna davanti alla Consulta. A sollevare la nuova questione di costituzionalità, il Tribunale di Roma, al quale si è rivolta una donna, portatrice sana di distrofia muscolare Becker, che si era vista negare sia l'accesso alla procreazione assistita, sia alla diagnosi preimpianto in quanto fertile. Permane infatti in Italia il divieto per le coppie non sterili di accedere alle indagini diagnostiche anche se portatrici di malattie trasmissibili. La Corte Costituzionale si trova per la prima volta ad affrontare questa specifica questione, per la quale nel 2012 la Corte Europea di Strasburgo aveva già condannato l'Italia, sottolineando l'incoerenza del nostro sistema che da un lato vieta ad una coppia fertile, anche se portatrice di malattie trasmissibili, di ricorrere alla diagnosi preimpianto e dall'altra, con la legge 194, le permette di abortire nel caso il feto risulti affetto dalla patologia. La legge 40 sulla procreazione assistita compirà tra poco, il 19 febbraio prossimo, 10 anni, durante i quali ha visto per ben 28 volte l'intervento dei tribunali. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. E anche su questo argomento che opinioni avete? C'è sempre la pagina Facebook per voi effetto notte trattino Roberta Giordano. E adesso però ci spostiamo a Milano. Alla Scala, il maestro Barenboim ha diretto la marcia funebre dall'eroica di Beethoven per commemorare Claudio Abbado, la sala del teatro vuota e la musica diffusa in piazza della Scala, chiusa al traffico. Una grande folla ha atteso in silenzio e ascoltato in silenzio l'esecuzione da parte dell'orchestra della Filarmonica. In chiusura allo sport, con il calcio, Mario Balotelli, ammonito ieri per il gestaccio rivolto ai tifosi del Cagliari, è stato squalificato un turno e quindi salterà Milan-Torino. L'attaccante rossonero era già stato diffidato e dovrà anche pagare una multa di 10.000 euro, così ha deciso il giudice sportivo. Bene, a questo punto vi ho raccontato un po' per sommi capi la giornata, poi ci addentreremo come sempre dopo la viabilità negli argomenti, in alcuni temi in particolare con gli ospiti. C'è la pagina per voi effetto notte, ci sono i messaggi 349-238-6666. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. eccoci qua, dopo pochi istanti. Vedo già diversi vostri messaggi sia sulla legge elettorale sia sulla procreazione assistita a proposito del Tribunale di Roma, che ha sollevato la questione di costituzionalità sul divieto alle coppie fertili di accedere a procreazione assistita e diagnosi preimpianto anche se portatrici di malattie trasmissibili geneticamente. Ha detto il Tribunale di Roma che è un diritto inviolabile avere dei figli sani. E c'è Nicola che dice la legge 40 è stata smontata pezzettino per pezzettino, sarebbe ora di abolirla con buona pace delle gerarchie cattoliche strapotenti in Italia. Alessandro dice ancora una volta dobbiamo lottare in tribunale per far rispettare dei diritti umani fondamentali, Parlamento e governo sono vergognosi. Riccardo dice già in passato l'uomo ha cercato la selezione del genere umano, questo ci ha lasciato traumi che difficilmente metabolizzeremo e la questione del diritto di avere figli sani potrebbe da tanti essere vista secondo questo punto di vista. Anche secondo me, dice, un diritto inviolabile avere figli sani, ma quanti bambini ci sono che hanno diritto di essere adottati? Questi sono due argomenti un po' diversi e poi in realtà quanto è difficile in Italia adottare dei bambini. Comunque adesso, prima di passare al prossimo tema, parliamo di politica, in particolare naturalmente di legge elettorale, vi ricordo quali sono i temi principali di oggi. E vi dicevo, l'Italicum, la legge elettorale, sono stati presentati 318 emendamenti e Letta assicura se va in porto sono il più felice. Ricchezza e povertà, secondo il rapporto di Banca Italia, la metà delle famiglie italiane vive con meno di 2.000 euro al mese. La giornata della memoria, l'ira di Napolitano contro gli atti di antisemitismo, dice miserabile la provocazione anti-ebrei. E la casa all'insaputa, non è reato l'ex ministro Scajola, quindi è stato assolto per la casa con vista sul Colosseo. E poi l'avete sentito, a proposito di procreazione assistita, la legge 40 torna davanti alla Consulta. Adesso torniamo a parlare, visto l'argomento vi ha appassionato tanto, ma appassiona molto, specie ultimamente, la politica. Parliamo di legge elettorale, parliamo del quadro politico in questo momento in generale, con Stefano Folli, che saluto volentieri. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Bentornato, editorialista del Sole 24 Ore. Intanto, Stefano, facciamo così proprio un passaggio breve sulle dimissioni della ministra De Girolamo. Questo secondo te prelude a un rimpasto molto velocemente, in tempi brevi? Io credo che questo governo abbia bisogno di rinnovarsi, anche le persone. Naturalmente credo di capire che non si voglia una crisi di governo, perché non sarebbe molto gestibile, però che alcuni ministri vadano un po', diciamo, rinnovati è necessario, insieme a quello che è ancora più importante, a un rilancio del programma. Questo, si parla tanto di questo, ma purtroppo si è fatto poco, naturalmente anche perché tutta l'attenzione è sulla legge elettorale, su altre questioni. Però insomma, ricordo che si era detto che gennaio sarebbe stato il mese in cui si metteva intorno a un tavolo e si creavano le basi di un grande rilancio programmatico del governo. Non è stato così. Ma a proposito, tu dici si discute molto di legge elettorale, secondo te è sopravvalutata l'importanza della legge elettorale per il nostro paese? Letta ha detto addirittura oggi con la nuova legge elettorale l'Italia sarà più forte, cioè perché è strettamente collegata a tutto il resto o in realtà davvero se ne parla fin troppo e si concentra tutto su quello, come se il resto dipendesse tutto poi, no, a scendere a pioggia? Noi siamo in Italia, noi siamo sempre molto enfatici, no? Si esagera sempre. Melodramma in poi, dice. Un po' melodramma in poi, sì. Io penso che la riforma elettorale sia importante, naturalmente, ma soprattutto è importante dare agli italiani l'impressione che il governo decide e fa e riesce a operare. Non si deve dare l'impressione che basta una riforma elettorale e tutti i problemi sono risolti, perché non è così. Semmai c'è da dire che è un po' tutto l'impianto costituzionale del nostro paese che andrebbe ammodernato, aggiornato. Però è vero che il cittadino comune sente soprattutto la paralisi decisionale, sente questa sensazione tremenda che in Italia qualsiasi cosa è difficile, per non dire impossibile, e quindi si pensa che dare il segnale attraverso una legge elettorale più moderna, più in grado di generare maggioranze determinate, possa essere la soluzione. Io non mi faccio invece troppe illusioni, penso che sia importante, ma non penso affatto che sia un elemento determinante. Senti, invece, a proposito delle liste bloccate, la questione delle preferenze, vedo che gli ascoltatrici e gli ascoltatori si appassionano molto, poi leggerò anche qualcuno dei messaggi. Secondo te perché Berlusconi insiste, sai che Infatti Renzi aveva detto giorni fa, porta a porta, io volevo le preferenze, poi però per fare questo accordo con Berlusconi non è stato possibile perché ha posto il veto e quindi niente preferenze, liste bloccate. Perché secondo te Berlusconi insiste sulle liste bloccate? È una sua linea tradizionale, teme che le preferenze gli tolgano il controllo del partito, creino tanti piccoli RAS locali che possono poi, facendo leva sulle preferenze, determinare dei feudi che sfuggono al suo controllo. Ma su questa cosa delle preferenze bisogna poi essere molto chiari, perché noi veniamo da una fase in cui le preferenze erano il male assoluto, no? Ti ricordi come il voto di scambio, si diceva che bisognava abolirle per dare trasparenza al sistema, eccetera. Adesso sono tornate a essere invece un simbolo di democrazia. Credo che non fosse vera esattamente la prima cosa e non è vero neanche questa. Io penso che il cittadino debba scegliere chi lo rappresenta in Parlamento, ma l'ideale sarebbe quello che non riusciamo a fare neanche con questa riforma, cioè dei collegi uninominali in cui si conosce il candidato e lo si vota. Si cerca di ottenere lo stesso risultato con queste piccole liste, no? Con queste liste corte. Da 3 a 6 persone, da 3 a 6 candidati, ecco. No? Però non è esattamente la stessa cosa. Io credo che il sistema francese o diciamo anche il sistema inglese da questo punto di vista garantiscono molto meglio. Ma secondo te non era proprio possibile arrivare a un accordo sul collegio uninominale, cioè avere un solo candidato in ogni collegio che si confrontasse con l'altro del partito opposto? Abbiamo un sistema molto anchilosato per cui molti partiti piccoli e medi non lo vogliono, ma non lo voleva nemmeno Berlusconi per le ragioni che abbiamo detto adesso, perché avrebbe visto trasformato sotto i suoi occhi il suo partito personale. E quindi diciamo che il Partito Democratico lo voleva, era l'unico partito che avrebbe potuto accettare un sistema uninominale, ma naturalmente non si può decidere da soli. E leggo qualche messaggio degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Vittorio dice non me ne frega assolutamente niente delle preferenze, andai a votare per eliminarle, ben felice di farlo e tutto sommato non ho cambiato idea, anche se mi sembra veramente questa una pantomima, come facevi capire tu Stefano, perché se per anni si è detto che erano il male assoluto, poi invece le si vogliono, sembra, sai, come certi alimenti che non si capisce mai se fanno bene o male per anni, di quello che fanno bene a seconda delle mode, appunto il colesterolo, è proprio la stessa cosa. Andrea dice: le preferenze sono solo un escamotage politico per dare impressione agli elettori di contare qualcosa, in realtà sono figlie di un senso diffuso di sfiducia e mancanza di autorevolezza dei partiti. Primarie e preferenze sono inutili se crediamo in un partito. Poi Massimo scrive: la proposta dei due pagliacci, molto critico, è abortita ancora prima di vedere la luce, bisogna ripristinare le preferenze ed abbassare lo sbarramento per dare voce a tutti, mentre mi pare che lo stiano alzando lo sbarramento. E Mario dice: i tempi sono cambiati e la gente ha poca fiducia dei partiti e della classe politica in generale, per questo la maggioranza degli italiani invoca le preferenze per controllare la qualità dei candidati, dice. Con il Porcellum abbiamo visto eletti personaggi davvero inquietanti. Poi Riccardo dice: condivido sempre più l'idea di una legge che obblighi alle primarie tutti i partiti, a parere mio ci sarebbe più trasparenza. Allora, Renzi ha già detto che per il Partito Democratico ci saranno queste primarie, però effettivamente forse bisognerebbe varare una regola, fare una legge per cui tutti i partiti che partecipano alle elezioni dovrebbero fare le primarie. Che dici tu? Sì, è una soluzione anche questa, per dare senso all'elettore di scegliere il candidato. Temo che sia un po' farraginosa una legge che obbliga le primarie. Però insomma, naturalmente è una soluzione. Tu hai detto la soluzione che preferisco è quella che non sarà introdotta, cioè il sistema uninominale come in Inghilterra o in Francia. Per quanto riguarda lo sbarramento, che tu accennavi adesso, si sta parlando di alzare lo sbarramento per quanto riguarda la coalizione, cioè anziché il 35% per ottenere il ballottaggio, il 38%. Insomma, questa però io penso che sia una cosa positiva, perché non si può nemmeno pensare di dare alla coalizione vincente un premio di maggioranza esorbitante, così come stavano le cose adesso si andava oltre il 20%, qualcuno dice anche il 35% in base a certi casi. Si guadagnava un po' troppo, dici così? Secondo me sì, ricordiamoci che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che in qualche modo è un po' il convitato di pietra di questa trattativa. Non si può troppo smentire quello che la Corte ha deciso un poco tempo fa. Chi ha detto che il premio di maggioranza era eccessivo E che poi appunto c'erano le liste bloccate troppo lunghe, nel senso che la gente non sceglie. Sì, ha detto questo, sì, certo. Senti, però invece per quanto riguarda la soglia di accesso al Parlamento, bisogna superare il 4%, il 5, che però viene portato al 4, nel corso del negoziato. Quindi si rende un po' più facile per i piccoli. È abbastanza avanti, un po' più, più facile, però non facilissimo. Non facilissimo, solo di 1%. Diciamo che questo è un sistema che tende ad accorpare i voti intorno a due grandi coalizioni. Tutti sono incentivati a entrare in queste coalizioni. Naturalmente i critici di questa ipotesi di riforma dicono che si riproducono gli soliti vizi, perché prima delle elezioni si fanno grandi accordi per stare in coalizione e superare le soglie, e dopo le elezioni si divide come prima. Ma questo perché effettivamente voler ottenere il bipartitismo in forza di legge, in forza di una riforma è contro natura un po' contro natura, perché in Inghilterra c'è il bipartitismo, ma ci sono voluti anche, insomma, sono circa due secoli che funziona così il sistema elettorale. Senti, l'ultima domanda ti faccio, Stefano Folli, e ritornando alla prima domanda, eravamo partiti dalla De Girolamo, il rimpasto, tu hai detto sì, bisognerebbe insomma rinnovare qualche volto, a parte lei chi altro tu cambieresti? Ma sai, sono i ministri che sono stati nelle polemiche in questi quindi questi Alfano mesi, con la Scialabaieva, Cancellieri con la questione di Gresti. Alfano è un capo di un partito, mi sembra un po' difficile che si possa essere rinnovato, ma io credo che al di là di poi dei nomi, credo che ci sia la necessità proprio di dare il senso di una squadra più compatta. Le polemiche, quando ci sono, esprimono un certo sfilacciamento della compagine, quindi il Premier deve ricostruire questa compattezza. Se c'è bisogno di cambiare qualche voto, lo si cambia. Ma soprattutto quello che conta è la determinazione complessiva di una maggioranza che è sembrata troppo stanca in questi tempi. Grazie Stefano Folli. Ciao, buona serata. Stefano. Adesso ci prendiamo questa pausa, c'è la pubblicità, voi continuate a riflettere sia sulla riforma elettorale, sulle preferenze, sia anche sulla questione della procreazione assistita e che torna la legge 40 di nuovo alla Consulta. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Subito, Roberta Giordano sempre con voi, per voi, per i vostri messaggi, le vostre opinioni, la pagina Facebook Effetto Notte oppure i messaggi al 349-238-6666. Ringrazio tanti messaggi, anche quello di Beatrice. Mario torna sulla legge elettorale, dice la legge elettorale deve permettere il governo del paese, le preferenze sono ininfluenti, bene lo sbarramento ai piccoli partiti. Valentina invece vuole tornare sul tema dell'Olocausto, il giorno della memoria, che oggi dice deve servire appunto a ricordare, a conoscere, a comprendere, a assimilare per il futuro. Olocausto, omocausto, scrive, non l'avevo mai sentito, ma è originale, rende l'idea. Discriminazione, poi dice, delle donne sopravvissute ai campi di concentramento e proprio per questo isolate, colpevolizzate, sono tante le memorie, neanche le storie e le memorie, dice, vanno discriminate, tutto a tutti va data voce e ascolto. Adesso invece diamo ascolto anche per quelli che sono i fatti principali della giornata che vi ricordo. A proposito dell'Italicum ci sono le ultime trattative, intesa sul premio di maggioranza, Forza Italia dice sì alla soglia del 38%, Renzi oggi aveva dato l'ultimatum, ha detto se non passa la legge, se si affossa, finisce la legislatura, Eletta sicura, se va in porto io sono il più felice. Il rapporto di Banca Italia sulla ricchezza e la povertà, secondo questo rapporto la metà delle famiglie italiane vive con meno di 2.000 euro al mese. E poi la giornata della memoria con Napolitano che condanna gli atti di antisemitismo e dice miserabile la provocazione ebrei. Il caso Scagliola non è reato, la casa all'insaputa, assolto quindi l'ex ministro per la casa con vista sul Colosseo e per la procreazione assistita la legge 40 torna davanti alla Consulta. Adesso invece vorrei parlare del rapporto Istat sull'immigrazione e anche emigrazione, e che comporta apparentemente dei dati contraddittori, opposti, in realtà sono tutte e due una certa continuità, una certa congruenza. L'immigrazione, sapete, delle polemiche che sono state fatte molte anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, nei confronti per esempio della ministra Chiang per l'integrazione, in realtà tutto questo flusso di immigrati è diminuito. È diminuito nel 2012 del 9,1%, che non è poco, mentre in compenso succede che ci sono sempre più italiani che vanno via, sempre più anche diplomati, laureati in Italia. Cresce l'immigrazione, quindi evidentemente sono due fenomeni, tutti e due nella stessa direzione, nel senso che l'Italia diventa poco attrattiva sia per gli stranieri extracomunitari sia per gli italiani stessi. Ma ne voglio parlare con Enrico Tucci. Buonasera Tucci. Buonasera. Ricercatore dell'Istat, appunto, per il Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali. Quindi in realtà, certo, continuerà l'immigrazione in Italia, starà continuando, però c'è quasi un 10% in meno nel 2012. Questi sono dati relativi al 2012, perché ancora quelli del 2013 vanno elaborati. Sì, sì, esattamente. Diciamo che questa tendenza alla diminuzione c'è ormai da qualche anno, diciamo che dal 2007 circa, che è un anno in cui si è registrato un picco di 527.000 iscrizioni dall'estero. Siamo a dei livelli sicuramente più bassi, diciamo che però è un flusso sempre, comunque rimane un flusso molto consistente, insomma, si consideri che sono 351.000 gli immigrati, di cui sono 321.000 sono gli stranieri che dall'estero cambiano la loro residenza e si iscrivono in Italia. Quindi, insomma, comunque siamo di fronte sempre a un flusso abbastanza consistente, anche se in calo sicuramente. E interessante però è anche l'emigrazione degli italiani, soprattutto diplomati e laureati, no? Verso l'estero, quindi continua questa fuga di cervelli, grandi o piccoli che siano, insomma, che vanno all'estero, evidentemente perché non ci sono grandi occasioni, opportunità e prospettive in Italia. Beh sì, questo, diciamo, è forse il dato più importante, mentre, insomma, per le migrazioni ci si aspettava pure che questa tendenza avesse un calo. Invece, diciamo che soprattutto in quest'anno, nel 2012, si è verificato un aumento molto forte dei cittadini italiani che se ne vanno, che emigrano e vanno all'estero. Siamo passati da 50.000 a 68.000, questo è un incremento molto forte, siamo sul 36% in più rispetto all'anno precedente. E, diciamo, questo dato, se visto anche, diciamo, in relazione a quella che è la distribuzione per titolo di studio degli italiani che vanno all'estero, che hanno un'età superiore ai 24 anni, diciamo che è abbastanza preoccupante, nel senso che poi queste persone che emigrano per un 27,6% sono laureati, quindi possiedono una laurea, quindi, diciamo, questo dato è in forte crescita. Cioè, chi pensa di avere più possibilità anche per il titolo di studio dice: qui non ho nulla da investire, mi conviene andare all'estero. Tucci, questo è, insomma, un po' il ragionamento in breve. Sì, noi, diciamo, questo è un dato anagrafico, quindi noi, diciamo, guardando a questa fonte non siamo in grado di dare una spiegazione. Però sì, se guardiamo alla distribuzione per età anche di chi va all'estero, insomma, ci accorgiamo che chi emigra un'età compresa, la stragrande maggioranza di chi emigra un'età compresa tra i 25 e i 45 anni, ed ha una distribuzione molto simile a quella degli stranieri che invece vengono nel nostro paese, quindi il tutto lascerebbe pensare, insomma, che il motivo è sempre lo stesso e riguarda sia per gli immigrati che vengono in Italia sia per gli immigrati che vanno all'estero, riguarda appunto la ricerca di migliori opportunità di lavoro. Sì, tutto questo nel report, appunto, dell'Istat migrazioni internazionali e interne della popolazione residente. Tra l'altro, le principali destinazioni dei laureati italiani sono Germania, Gran Bretagna, Svizzera e Francia, no? Per quanto riguarda almeno l'Europa. Sì, sono Germania, Svizzera, Regno Unito e Francia, sì. Diciamo che la grande maggioranza di chi emigra comunque rimane nell'Unione Europea, sceglie un paese dell'Unione Europea, questo vale sia per chi, diciamo, nel complesso, sia se si guarda proprio al titolo di studio. Chi sceglie invece di emigrare al di fuori dell'Unione Europea, diciamo, mete preferite sono Stati Uniti e Brasile, sostanzialmente. Questo certo significa fare esperienze, arricchirsi, naturalmente aprirsi anche la mente a nuovi stimoli andando all'estero, però questo ci dice, come confermava prima Enrico Tucci, insomma, e come ho sottolineato io, perché loro giustamente l'Istat fa una fotografia, poi sono i sociologi a dover spiegare quali sono i motivi per cui le persone se ne vanno o arrivano. In questo caso, insomma, non, diciamo che non è molto positivo per l'Italia che tanti giovani tra i 25 e i 45 anni, diplomati e laureati, scelgano di lasciare l'Italia, perché evidentemente non dà grosse prospettive. Enrico Tucci, la ringrazio. La saluto. Grazie. E adesso invece il nostro appuntamento quotidiano, questo con l'Europa. Vi ricordo sempre che il 25 maggio si vota, quindi non ci occupiamo soltanto del nostro piccolo orticello qui in Italia, della legge elettorale eccetera, si voterà anche il 25 maggio per l'Europa. Noi siamo dentro l'Europa, vedete anche quanti italiani poi se ne vanno negli altri paesi europei, quindi ci interessa ancora più da vicino. Bene, parliamo di Grillo, che alle europee dice, l'ha detto nei giorni scorsi, vi ricordate, andiamo da soli e vinceremo, altrimenti io mi tolgo di mezzo, scompaio. Questo appello lo lancia ufficialmente, lancia con questo la campagna per le elezioni europee di maggio, appunto, e intanto pensate che da oggi partono le prevendite per il suo nuovo spettacolo. Europa 24 notte. Verso le europee. Vinceremo, lo metteremo per iscritto. La campagna per le elezioni europee di Beppe Grillo è appena cominciata, ma il leader dei 5 Stelle sente già la vittoria in tasca. Sa di avere delle chance, visto che la consultazione della prossima primavera si trasformerà inevitabilmente anche in un referendum sull'euro. E il suo movimento, insieme alla Lega, è quello più deputato a dar voce ai sentimenti populisti e anti-europeisti. E proprio sulle europee Grillo potrebbe raccogliere consensi trasversali di chi in un momento di crisi come questo vive l'Europa come fonte di sacrifici e vessazioni. Ma noi non siamo anti-europei, dice Grillo, parlando alla sede della sala stampa estera in una conferenza stampa Fiume, preclusa ai giornalisti italiani che l'hanno potuta seguire, seppur un po' faticosamente, via web. Secondo me, secondo noi, poi vedremo se cosa che decideremo insieme, se ci sarà qualche gruppo tedesco, finlandese, olandese con cui fare massa critica, che abbia il nostro programma. Ma ripeto, noi non siamo anti-europei. Guardate che voi l'avete descritto sui vostri giornali, specialmente in Germania e in Francia, come un razzista, come un scialtiero. Quel signore lo sa bene perché l'ha scritto lui l'articolo. Né anti-europei né populisti, ribatte infastidito Grillo ai giornalisti europei. Vogliamo solo un'Europa diversa. Tant'è che tra i 7 punti per l'Europa, il primo da affrontare per Grillo è il referendum per la permanenza nell'euro, il secondo è l'abolizione del fiscal compact, dunque fine del divieto di superamento della soglia del deficit strutturale e niente imposizioni rigide sulla riduzione del debito. E qui la ricetta del leader pentastellato è quella del presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, che ha detto: il debito che abbiamo contratto non lo paghiamo perché immorale. Il presidente dell'Ecuador si alzò e disse: il debito che abbiamo col Fondo Monetario non lo paghiamo perché è immorale. Come immorale? Sono andati in causa, hanno vinto la causa perché avete usato lo stesso termine quando siete andati in Iraq con gli Stati Uniti, avete detto 50 miliardi di dollari di debito dell'Iraq, noi non le paghiamo perché è un debito immorale. Hanno vinto la causa. Hanno fatto una serie di imbarghi sull'Ecuador, gli hanno tolto tutto, venite contro il Fondo Monetario, l'hanno isolato e cosa è successo? Che Brasile ha cominciato a dire no, aspetta, non ti lascio solo, ti mando magari un po' di roba, di verdure fresche, di frutta che ce l'abbiamo. Allora il Venezuela ti manda il petrolio, magari un po' di petrolio così gratuitamente, la Bolivia ti manda 1 miliardo di euro, poi me li dai. L'Argentina ha detto ti mando un po' di carne di prima scelta per il tuo. Si sono aiutati. Quanto ai criteri per la scelta dei candidati, si seguirà il solito metodo. Dovranno essere incensurati senza più di 2 legislature alle spalle. Si farà una lista, si pubblicherà un curriculum. La gente sceglierà, come sempre, rigorosamente online. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Rieccoci qui, vedevo adesso una notizia veramente bizzarra su Corriere Online. La NSA, cioè l'organismo di spionaggio e di controllo negli Stati Uniti, quello posto sotto accusa dopo le rivelazioni di Snowden, ha spiato, pensate, anche i giocatori di Angry Birds e gli utenti delle app, delle applicazioni più usate. Cosa ci sarà di particolarmente losco nei giocatori di Angry Birds? Ancora io non me lo so spiegare. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Siete acceso la radio in questo momento, se eravate scesi e poi risaliti in macchina oppure siete in casa, qualsiasi cosa state facendo, vi ricordo quali sono state le notizie principali di oggi. Naturalmente l'Italia con la legge elettorale, le ultime trattative, c'è intesa sul premio di maggioranza con Forza Italia che dice sì alla soglia del 38%, e quindi è salito dal 35 al 38, mentre Renzi oggi ha dato l'ultimatum: o si fa questa legge o cade la legislatura. Ricchezza e povertà: secondo il rapporto di Banca Italia, la metà delle famiglie italiane vive con meno di 2.000 euro al mese, il 10% delle famiglie possiede il 46% della ricchezza del paese. Electrolux: la richiesta dell'azienda ai sindacati per salvare gli stabilimenti in Italia, stipendi portati da 1.400 euro a 700 euro. La giornata della memoria: Napolitano attacca gli atti di antisemitismo e dice miserabile la provocazione anti-ebrei. La casa all'insaputa non è reato. L'ex ministro Scajola è stato assolto per la casa con vista sul Colosseo e la legge 40, quella sulla procreazione assistita, ritorna davanti alla Consulta. Adesso anche un po' del panorama estero di quello che succede in altri paesi, come l'Egitto, che non è così lontano da noi. Ciao Alberto Negri. Buonasera a tutti voi. Buonasera a te, inviato del Sole 24 Ore. Allora, che ore sta vivendo ultimamente l'Egitto, dalla famosa primavera, cos'era, del 2011 fino adesso? Insomma, un po' di cose sono più o meno cambiate, assestamenti, scontri, proteste, presidenti che si sono succeduti. A che punto siamo adesso, Alberto? Ma sembra quasi che il tempo sia tornato indietro, che sia stata portata indietro la lancetta dell'orologio. Perché nel 2011 gli egiziani scesero in piazza per sbalzare dal potere Mubarak, un ex generale che era diventato presidente, e adesso si rimettono nelle mani di un altro ex, di quello che sarà tra poco un ex generale, cioè Abdullah al-Sisi, che oggi praticamente è stato investito della candidatura alla presidenza del Consiglio Supremo delle Forze Armate. È stato promosso maresciallo, tra un po' abbandonerà l'uniforme e si presenterà alle elezioni presidenziali di aprile. Ma detto questo, la situazione è anche drammatica, perché avete visto tutti cosa è successo in questi giorni nel terzo anniversario della rivoluzione del 25 gennaio 2011. Migliaia di persone in piazza, decine e decine di morti, tra 60 e 90 morti, insomma il paese è tutt'altro che pacificato, è assai diviso. Alberto, ma tu che cosa risponderesti a chi magari obietta dicendo, insomma, sì, vabbè, la primavera araba, la rivoluzione del 2011, forse tutto sommato era meglio come era prima, si stava bene quando si stava peggio, nel senso, forse tutto questo finora non è che ha portato grandi progressi, come dicevi tu, le lancette dell'orologio piuttosto sono tornate indietro. Ma obietterei una cosa, che qui siamo di fronte a un processo lungo, che è cominciato con una rottura drammatica delle rivolte arabe del 2011, ma quelle rivolte furono ingenerate da un processo di degrado di stati che erano sull'orlo del fallimento, cioè c'era un vuoto ormai di potere, un vuoto di idee, di politica, e quello che è accaduto è stato in fondo un processo appunto che in qualche modo decretava la fine di regimi che erano ormai marcescenti. Poi quello che abbiamo visto è stato anche un altro fenomeno che però ci deve far riflettere, che neppure il principio di legittimazione democratica con le elezioni si è rivelato sufficiente a riempire quei fallimenti e a tenere insieme interi paesi. Abbiamo visto cosa è accaduto in Egitto, abbiamo visto quanto è accaduto in Libia, forse l'eccezione è la piccola Tunisia, dove l'Assemblea nazionale ha votato ieri la Costituente a stragrande maggioranza, i deputati sono tutti alzati in piedi e in maniera emozionale hanno cantato l'inno e ha sventolato la bandiera e si sono dati anche un nuovo governo di transizione. Ma dalle altre parti le rivolte hanno assunto svolte drammatiche. Il caso più drammatico appunto è quello della Siria, dove la rivolta contro Bashar Assad e il regime si è tramutata in una guerra civile. Senti, poi Alberto, naturalmente tu ti interessi ad ampio raggio del resto del mondo, hai fatto anche un'intervista che dovrebbe andare domani sul Sole 24 Ore al presidente turco. Tra l'altro l'Unione Europea ha deciso ad ottobre di rilanciare i negoziati di adesione all'Unione da parte della Turchia, anche se sono fermi da diverso tempo, perché insomma la Turchia dà spesso segnali, insomma, non di grande apertura, di profonda e radicata democrazia, e quindi ogni tanto si fa qualche passo indietro. Hai intervistato Abdullah Gül, tu? Sì, il presidente della Repubblica Turca, che si propone in questo momento, anche se non lo dice apertamente, un po' come alternativa al primo ministro Erdogan. Vengono tutte e due dallo stesso partito, la KP, partito conservatore religioso ma molto liberale in politica, governa da 12 anni, ha avuto grandi successi economici, ma Erdogan francamente ha assunto movenze assai autoritarie. E tra l'altro ci sono anche delle difficoltà economiche, la lira turca è scesa quasi crollata sui mercati, e anche la questione europea è molto controversa, nel senso che il presidente Gül l'ha detto chiaramente: noi guardiamo l'Europa come il traguardo principale, cerchiamo anche di fare delle leggi che siano nel quadro dei principi europei, però oggi c'è stato una specie di scenetta non troppo divertente per i turchi, perché è andato ad Ankara in visita il presidente francese François Hollande, e Gül, il presidente turco, ha chiesto a Hollande che la Francia non ostacoli l'adesione dell'Unione all'Unione Europea della Turchia. La risposta di Hollande in conferenza stampa è stata piuttosto secca, ha detto: attenzione, che se voi aderite all'Unione noi comunque indiremo un referendum popolare in Francia per decidere se la Turchia può entrare o meno. Non è una novità, ma certamente anche questo non è un successo diplomatico. Grazie Alberto Negri, poi se volete leggere tutta l'intervista domani sul Sole 24 Ore, firmata da Alberto Negri. Ciao Alberto. Ciao a tutti voi. Ciao. Adesso spostiamoci invece, alleggeriamo, diciamo, un po' il tono, i temi, con un po' di calcio, un po' di CDA, anche qua ci sono i CDA, i consigli di amministrazione, è vero, Dario Ricci di mezzo, insomma, la finanza, anche questi ambiti dove girano miliardi di milioni, Dario. Eccoci Roberta. Beh, servono i soldi, in sintesi, semplificando, servono i soldi per il calciomercato. Questo è il problema, e in particolare in casa Inter, un'Inter scottata dalla domenica orribile di San Siro, lo 0-0 con il Catania, con tanto di contestazione contro alcuni dei massimi dirigenti del club. Adesso ha preso un po' la situazione in mano Erik Thohir, il tycoon indonesiano, che è il nuovo presidente dell'Inter, e oggi, dopo un incontro fiume di 9 ore con i vertici della società, ha un po' dettato la linea. Insomma, prima di acquistare bisognerà cedere per incassare qualcosa. Sembra pronto la cessione in prestito di Belfodil, l'attaccante, agli inglesi del Queen Park Rangers, e poi si potrà acquistare. Già domani dovrebbe arrivare il torinista D'Ambrosio per la fascia sinistra, ma quello che più conta è che Thohir tenterà anche di riallacciare i rapporti con la Juventus, raffreddati ed è dir poco dopo l'affare Vucinic-Guarin, di cui ormai so che sei diventata anche tu un'esperta. Eccezionalmente, quindi, che grande esperta. Senti, c'era... Infatti, quindi Thohir sta ricontattando Agnelli, ma ora per mettere le mani su Vucinic deve battere anche la concorrenza dello Zenit di San Pietroburgo, squadra allenata da quello Spalletti, che ha avuto già Vucinic alla Roma e che quindi ben conosce il giocatore. E poi c'è questo enigma Guarin, nel senso che il giocatore non andrà alla Juventus, ma è restio a ritornare in campo con i nerazzurri, causa le tensioni di questi giorni, quindi Mazzarri dovrà recuperarlo un po' anche alla causa nerazzurra, quindi parecchio. Perché Guarin doveva essere ceduto, no? Poi trattativa dopo si è bloccata, anzi Thohir è tornato sui suoi passi, insomma si vede che ha già, diciamo, respirato il clima italico, che si dice una cosa, poi c'era, si rimane mangia, cose di questo tipo, per cui Guerin stesso è un po' in difficoltà adesso, in imbarazzo a ritornare. Sì, sicuramente, mentre Vucinic comunque sembra a Torino sul piede di partenza, dà degli estimatori, adesso invece Guerin non trova al prezzo che vorrebbe l'Inter degli acquirenti in tempi brevissimi, quindi c'è un bel problema. Mentre dall'altro, l'altra sponda di Milano, vale la pena dirlo, Roberto, è sempre alle prese con Super Mario Balotelli. Avrei visto questa notizia di questa sfiorata rissa in una discoteca milanese domenica sera, ritorno dalla trasferta di Cagliari con DJ Francesco, con Francesco Facchinetti, quindi insomma... Troppo viziati, devo dire, questi calciatori. Forse tu non sarai d'accordo con me, caro Dario, però io ti dirò che la penso così: un po' meno soldi, un po' più disciplina, visto che fanno insomma anche una cosa piacevole nella loro vita, guadagnano tanti soldi, hanno tanti onori, ci vorrebbero anche un po' di oneri. Mi fermo qui però, saluto e ringrazio Dario Ricci, voi continuate naturalmente a consultare e scrivere alla pagina Facebook di Effetto Note, e noi ci sentiamo tra qualche istante.